Capitolo 10. Gli Allen, i Thorpe e i Morland si incontrarono tutti quella sera a teatro. E dato che i posti di Catherine e Isabella erano uno vicino all'altro, a quest'ultima si presentò finalmente l'opportunità di esprimere alcune delle mille cose che avrebbe voluto, ma che non aveva potuto dire Catherine, nell'incommensurabile intervallo di tempo durante il quale erano state separate. Santo cielo, Catherine, tesoro mio, finalmente ti ho qui con me. Furono le sue prime parole quando Catherine entrò nel palco e si sedette vicino a lei. E ora, signor Morland, egli le era vicino dall'altro lato, non vi rivolgerò la parola per tutto il resto della serata, quindi vi avviso di non aspettarvelo. Ma dolcissima Catherine, come sei stata tutto questo tempo? Oh, non ho bisogno di chiedertelo perché hai un aspetto delizioso. Ti giuro che hai acconciato i capelli in modo più divino che mai, birichina. Vuoi dunque conquistare proprio tutti? Ti assicuro che mio fratello è già innamorato di te. E per quanto riguarda il signor Tilney, ma quella ormai è una faccenda certa. Perfino con tutta la tua modestia ora puoi dubitare del suo attaccamento. Il fatto che sia ritornato a Bath lo rende troppo evidente. Oh, cosa non darei per vederlo! Ti assicuro che muoio dalla curiosità. Mia madre dice che è il giovanotto più affascinante del mondo. L'ha visto stamattina, sai, devi proprio presentarmelo. E qui ora? Guardati intorno, per amor del cielo, ti giuro che non sopravviverò se non lo vedo. No, disse Catherine, non è qui, non lo vedo da nessuna parte. Oh, che cosa terribile! Non riuscirò dunque mai a conoscerlo. Ti piace il mio abito? Spero che non sia troppo sconveniente. Il modello delle maniche l'ho inventato tutto da sola, sai, sono così terribilmente stanca di Bath. Tuo fratello e io stamattina concordavamo sul fatto che, benché sia bellissimo stare qui per qualche settimana, non ci vivremo nemmeno per un milione. Presto abbiamo scoperto che i nostri gusti erano esattamente gli stessi e che preferivamo la campagna a qualsiasi altro luogo. Le nostre opinioni erano così identiche. Oh, una cosa davvero assurda. Non c'era un punto su cui non ci trovassimo d'accordo. Non avrei voluto che tu fossi con noi per tutto l'oro del mondo. Tu sei così acuta. Sono sicura che avresti fatto qualche tuo commento malizioso. Ma no, certo che no. Oh, sì, certo che sì, ti conosco meglio di quanto tu conosca te stessa. Ci avresti detto che sembravamo fatti l'uno per l'altra, o qualche sciocchezza del genere. Che mi avrebbe sconvolto da non credere. Le mie guance si sarebbero fatte rosse come le tue rose. Non avrei voluto che tu fossi con noi per tutto l'oro del mondo. Oh, sei davvero ingiusta con me. Per nessun motivo avrei fatto un commento così sconveniente. Inoltre, sono sicura che non mi sarebbe mai venuto in mente. Isabella sorrise, incredula, e per il resto della serata parlò con James. Fino alla mattina dopo, Catherine mantenne caparbiamente la sua decisione di cercare di incontrare di nuovo la signorina Tilney. E fino all'ora in cui generalmente si recavano alla Pump Room, fu in ansia per la paura che qualcos'altro glielo impedisse. Ma non capitò niente del genere. Non apparve nessun visitatore che li facesse ritardare e tutti e tre uscirono in orario diretti alla Pump Room, dove gli avvenimenti e le conversazioni seguirono il loro corso ordinario. Il signor Allen, dopo aver bevuto il suo bicchiere d'acqua, raggiunse alcuni altri signori per commentare le novità politiche del giorno e per confrontare i resoconti dei rispettivi giornali, e le signore passeggiarono notando ogni nuovo viso e quasi ogni nuovo cappellino della sala. La parte femminile della famiglia Thorpe, scortata da James Morland, apparve tra la folla dopo meno di un quarto d'ora e Catherine prese immediatamente il suo solito posto accanto all'amica. James, che era ormai una presenza costante, fece la stessa cosa e separandosi dal resto del loro gruppo essi passeggiarono per un po' finché Catherine cominciò a dubitare che quella fosse una situazione molto felice, dato che rimanendo relegata esclusivamente alla compagnia dell'amica e del fratello, aveva poche possibilità di richiamare l'attenzione dell'uno o dell'altro. Erano continuamente impegnati in qualche discussione sentimentale o in qualche disputa vivace, ma esprimevano i propri sentimenti con voci così basse e la loro vivacità era accompagnata da tante risatine che, benché spesso l'uno o l'altra invocassero in proprio favore l'opinione di Catherine, lei non poteva mai rispondere perché non aveva sentito una parola dell'argomento. Alla fine, comunque, ebbe la possibilità di disimpegnarsi dalla compagnia dell'amica, adducendo la necessità di parlare alla signorina Tilney, che con immensa gioia vide entrare nella sala insieme con la signora Hughes e che raggiunse immediatamente, decisa a fare amicizia con lei più fermamente di quanto avrebbe avuto il coraggio di imporsi se non ci fosse stata la delusione del giorno prima. La signorina Tilney la accolse con grande cortesia, ricambiò i suoi approcci con la stessa buona volontà e tutte e due continuarono a chiacchierare finché i rispettivi gruppi rimasero nella sala. È molto probabile che nessuna delle due facesse un'osservazione o usasse un'espressione che non fosse già stata ripetuta qualche migliaio di volte sotto quello stesso tetto durante ogni stagione a Bath. Ma nonostante questo, tutte e due avevano il merito di parlare con semplicità e serenità, senza presunzione, e questo era forse qualcosa di raro. Come balla bene vostro fratello? Esclamò con disinvoltura Catherine verso la fine della loro conversazione, cosa che insieme sorprese e divertì la compagna. Harry? Replicò con un sorriso. Oh sì, danza molto bene. Deve essergli sembrato molto strano l'altra sera sentirmi dire che ero impegnata mentre mi vedeva seduta, ma mi ero impegnata precedentemente con il signor Thorpe. La signorina Tilney poté solo assentire. Non potete immaginare, aggiunse Catherine dopo un attimo di silenzio, quanto sia stata sorpresa nel rivederlo. Ero sicurissima che avesse lasciato Bath. Oh, quando Henry ebbe il piacere di conoscervi, era Bath solo per un paio di giorni. Era venuto unicamente per prendere in affitto l'alloggio per noi. Oh. A questo proprio non avevo pensato e naturalmente, non vedendolo da nessuna parte, ho creduto che se ne fosse andato. E la signorina con cui ballava lunedì non era una certa signorina Smith? Oh, sì, una conoscente della signorina Hughes. Direi che pareva molto contenta di ballare. La trovate carina? No, non molto. E lui non viene mai alla Pump Room, immagino. Sì, qualche volta, ma stamattina era uscito a cavallo con mio padre. A questo punto le raggiunse la signora Hughes, che chiese alla signorina Tilney se era pronta per andare. Spero che avrò il piacere di rivedervi presto, disse Catherine. Verrete al ballo domani? Forse sì, credo che verremo senz'altro. Oh, ne sono felice perché noi ci saremo tutti. Questa cortesia venne ricambiata come si conveniva e le due donne si separarono. La signorina Tilney, ormai più o meno consapevole dei sentimenti della sua nuova conoscente, e Catherine del tutto ignara di averli manifestati. Catherine tornò a casa felicissima. La mattina aveva corrisposto a tutte le sue speranze e a questo punto, oggetto di aspettativa, unico bene futuro, era la sera del giorno dopo. La sua preoccupazione principale diventò quale abito e quale acconciatura dovesse adottare per l'occasione. Non possiamo addurre per lei nessuna giustificazione. I vestiti costituiscono sempre un modo frivolo di distinguersi e un'eccessiva sollecitudine per essi distrugge spesso il proprio stesso fine. Catherine sapeva benissimo tutto questo. La prozia le aveva letto una predica sull'argomento soltanto il Natale precedente. Eppure lei, mercoledì notte, rimase sveglia 10 minuti, incerta tra la mussola fantasia e quella ricamata. E solo la mancanza di tempo le impedì di comprare un abito nuovo per la serata. Questo sarebbe stato un errore di giudizio grave, anche se non insolito, contro il quale avrebbe potuto metterla in guardia meglio un appartenente all'altro sesso, piuttosto che una del suo, un fratello, piuttosto che una prozia. Poiché solo gli uomini possono rendersi conto dell'insensibilità degli uomini verso un abito nuovo. Molte signore si sentirebbero ferite nei propri sentimenti se si facesse capire loro quanto poco è influenzato il cuore di un uomo da quello che di costoso o di nuovo c'è nel loro abbigliamento, quanta poca importanza abbia la qualità della loro mussola e quanto l'altro sesso sia refrattario a provare particolare tenerezza verso la mussola fantasia, quella ricamata, la mussolina sottile o quella più pesante. La donna è elegante solo per far piacere a se stessa. Non risveglierà per questo ammirazione maggiore in nessun uomo, né riuscirà più simpatica a nessun'altra donna. I primi si accontentano che vesta in modo accurato e secondo la moda, mentre servirà di più ad accattivarsi la benevolenza delle altre un pizzico di sciatteria o un accessorio stonato. Ma nemmeno una di queste profonde riflessioni turbò la tranquillità di Catherine. I sentimenti che provava quando entrò nelle sale da ballo il giovedì erano molto diversi da quelli che l'avevano accompagnata il lunedì precedente. Allora si era sentita felicissima perché era impegnata con il signor Thorpe, mentre ora era preoccupata soprattutto di evitarlo, per paura che la invitasse di nuovo. Infatti, benché non potesse, non osasse aspettarsi che il signor Tilney le chiedesse per la terza volta di ballare, pure i suoi desideri, le sue speranze, i suoi piani non avevano altro soggetto. Qualsiasi signorina può comprendere lo stato d'animo della mia eroina in questo momento critico, poiché ogni signorina ha provato una volta o l'altra la stessa emozione. Tutte hanno temuto, o almeno tutte hanno creduto di dover temere, la corte di qualcuno che volevano evitare, e tutte hanno desiderato con ansia le attenzioni di qualcuno al quale desideravano piacere. Non appena vennero raggiunti dai Thorpe, le angustie di Catherine ebbero inizio. Si guardò in giro agitata per vedere se John Thorpe venisse verso di lei. Si nascose il più possibile alla sua vista e quando lui le parlò fece finta di non sentire. Le quadriglie erano finite, incominciavano le danze campestri e i Tilney ancora non si vedevano. «Non scandalizzarti, mia cara Catherine», bisbigliò Isabella, «ma io ballerò di nuovo con tuo fratello. Ti assicuro di sapere che è assolutamente sconveniente». Gli ho detto che dovrebbe vergognarsi di se stesso, comunque tu e John dovete darci il vostro appoggio standoci vicini. Sbrigati, tesoro mio, vieni con noi. John si è appena allontanato, ma ritornerà tra un minuto. Catherine non ebbe né tempo né voglia di rispondere. Gli altri due se ne andarono. John Thorpe era ancora in vista e lei si sentì perduta. Comunque, per non dare l'impressione di osservarlo o di aspettarlo, si immerse nella contemplazione del suo ventaglio. E aveva appena rimproverato mentalmente se stessa per la follia di aver immaginato che in mezzo a una tale quantità di gente avrebbe potuto incontrare Tilney in tempo, quando improvvisamente si ritrovò interpellata e nuovamente invitata a ballare dallo stesso signor Tilney. Con quale sguardo raggiante e con quanta rapidità esaudì la sua richiesta. E quanto le battesse piacevolmente il cuore quando lo seguì, si può facilmente immaginare. Sfuggire, e per quanto poteva pensare sfuggire di così stretta misura a John Thorpe, ed essere invitata immediatamente, non appena l'aveva raggiunta, invitata dal signor Tilney, come se l'avesse cercata apposta, oh, le sembrava che la vita non potesse offrire una felicità maggiore. Erano appena riusciti a conquistare un posto tranquillo, comunque, quando la sua attenzione fu richiamata da John Thorpe, che si trovava proprio dietro di lei. «Ehi, signorina Molland», le disse, «e questo cosa significa? Pensavo che voi ed io dovessimo ballare?» «Oh, mi meraviglio che l'abbiate pensato perché non me l'avete chiesto. Oh, questa è buona, per Giove. Vi ho invitata non appena sono entrato nella sala e stavo appunto per invitarvi di nuovo, ma quando mi sono girato ve ne eravate andata. Questo è un maledettissimo brutto tiro. Sono venuto solo per danzare proprio con voi?» Ed ero fermamente convinto che voi foste impegnata con me fin da lunedì? Sì, ricordo, vi ho invitata nell'atrio mentre aspettavate il vostro mantello. E da quando sono qui non ho fatto che dire a tutti quelli che conoscevo che avrei ballato con la ragazza più carina della sala. Quando vi vedranno con qualcun altro mi prenderanno in giro come non mai. Oh no, non penseranno mai che si tratti di me dopo una tale descrizione. Accidenti, se non lo faranno butterò fuori dalla sala a calci con le teste di legno. E chi è quel tipo con voi? Catherine soddisfece la sua curiosità. Tilney? Ripeté lui. Non lo conosco. Un bell'uomo, ben fatto. Non avrebbe bisogno di un cavallo? C'è qui un mio amico, Sam Fletcher, che ne ha da vendere uno, che farebbe la gioia di chiunque. Un animale intelligente, straordinario, come cavallo da tiro, solo 40 guinee. Avevo una mezza idea di comprarlo io, perché uno dei miei principi è comprare sempre un buon cavallo quando capita. Ma a me non serve, non sarebbe buono a niente in campagna. Pagherei qualsiasi somma per un vero buon cavallo da caccia. Ne ho tre adesso, i migliori che mai siano stati montati, e non li venderei nemmeno per 800 guinee. Fletcher e io vogliamo prendere una casa nell'Estershire per la prossima stagione. È così scomodo vivere in una locanda. Questa fu l'ultima frase con cui riuscì ad annoiare Catherine. Poiché a questo punto fu trascinato via dalla forza irresistibile di una lunga fila di signore che volevano passare. Il suo cavaliere si avvicinò e disse: Quel signore mi avrebbe fatto perdere la pazienza se fosse rimasto con voi ancora mezzo minuto. Non ha nessun diritto di distogliere da me l'attenzione della mia dama. Abbiamo accettato un contratto di reciproca amabilità per lo spazio di una sera e durante questo periodo di tempo tutta l'amabilità dell'uno appartiene soltanto all'altra e viceversa. Nessuno può assicurarsi l'attenzione dell'uno senza ledere i diritti dell'altro. Io considero la danza campestre come un emblema del matrimonio. La fedeltà e la cortesia sono i doveri principali di entrambi, e quegli uomini che non scelgono di danzare o di sposarsi non devono avere niente a che vedere con le dame o le mogli dei loro vicini. Oh, ma sono cose così diverse che voi pensate che non si possano paragonare? Certo che no. La gente che si sposa non si può più separare e deve andare ad abitare insieme. Quelli che ballano stanno semplicemente l'uno di fronte all'altra in una lunga sala per una mezz'ora. Oh, e questa è la vostra definizione del matrimonio e del ballo? Da questo punto di vista, certo non si è colpiti da nessuna somiglianza, ma penso di poter mettere le cose sotto una luce diversa. Ammetterete che in entrambe l'uomo ha il vantaggio della scelta, la donna ha solo la possibilità di rifiutare, che in entrambe si ha un impegno da parte dell'uomo e della donna contratto a beneficio di entrambi, che una volta che lo hanno accettato. E si appartengono esclusivamente l'uno all'altra fino al momento del suo scioglimento, che è dovere di entrambi cercare di non dare all'altro motivo di desiderare di essersi legato a qualcun'altra o a qualcun altro, ed è bene che entrambi evitino di lasciar correre l'immaginazione pensando alle doti dei loro vicini, o di fantasticare che forse sarebbero stati meglio con qualcun altro. Ammettete tutto ciò? Certo, è vero, come lo esponete voi, il ragionamento fila benissimo. Ciò nonostante si tratta pur sempre di situazioni molto diverse, non riesco a vederle sotto la stessa luce né a credere che a entrambe appartengano gli stessi doveri. Oh, da un certo punto di vista c'è una differenza senz'altro. Nel matrimonio ci si aspetta che l'uomo provveda al sostentamento della donna e che la donna renda la casa gradevole per l'uomo. Lui deve fornire le cose materiali, lei deve sorridere. Ma nel ballo i doveri sono esattamente opposti. A lui tocca offrire la cortesia e la compiacenza, a lei fornisce il ventaglio e l'acqua di colonia. Suppongo che sia proprio questa la differenza di doveri che vi ha colpito, tanto da rendere le due condizioni impossibili da paragonare. Ma no, davvero, a questo non ho mai pensato. Oh, allora sono proprio in difficoltà, devo osservare una cosa comunque. Questo vostro atteggiamento è piuttosto preoccupante. Voi non ammettete vi sia nessuna somiglianza tra gli obblighi proprio alle due situazioni? E allora non posso forse dedurne che le vostre idee sui doveri del ballo non sono così rigorose come il vostro cavaliere potrebbe desiderare? Non ho motivo di temere che se il signore che vi ha appena parlato ritornasse, o se qualsiasi altro uomo vi rivolgesse la parola, niente vi impedirebbe di conversare con lui quanto desiderate? Oh, il signor Thorpe è un così caro amico di mio fratello che se mi parla gli devo rispondere, ma in questa sala non ci sono nemmeno tre giovanotti oltre a lui che io conosca. E deve essere questa la mia sola garanzia? Oh, ahimè, ahimè. Oh, su via, sono certa che non potete averne una migliore, poiché se non conosco nessuno, non c'è nessuno con cui possa parlare. E inoltre io proprio non voglio parlare con nessuno. Oh, ora mi avete dato una garanzia che vale la pena di possedere e io procederò con coraggio. Trovate Bath altrettanto piacevole di quando ebbi l'onore di farvi la prima volta questa domanda? Oh, sì, anzi, di più. Di più? State attenta o dimenticherete di sentirvene stanca al momento giusto. Dovreste stancarvene dopo 6 settimane. Oh, credo che non mi annoierei nemmeno se rimanessi qui 6 mesi. Bath, rispetto a Londra, ha poca varietà, come tutti scoprono ogni anno. Ammetto che Bath è abbastanza piacevole per 6 settimane, ma più a lungo di così è il posto più noioso del mondo. Questo è quello che potete sentirvi dire da gente di ogni tipo che viene regolarmente ogni inverno, prolunga le 6 settimane fino a 10 o 12 e finalmente se ne va perché non può più permettersi di rimanere a lungo. Ebbene, è giusto che ognuno abbia la sua opinione. E per chi va a Londra, Bath può non essere niente di eccezionale, ma io che vivo in campagna in un piccolo villaggio appartato non potrò mai pensare che un posto come questo è più monotono di casa mia. Poiché qui ci sono una varietà di divertimenti, una varietà di cose da vedere e da fare per tutta la giornata che laggiù non posso neppure immaginare. Voi non amate la campagna? Oh, sì, invece vi ho sempre vissuto e sono sempre stata felicissima, ma certamente la vita di campagna è più monotona di quella di Bath. In campagna ogni giorno è esattamente uguale all'altro. Ma in campagna impiegate il vostro tempo in modo più utile. Credete? E non è forse così? Oh, non credo che ci sia molta differenza. Beh, qui per tutto il giorno siete solo alla ricerca di divertimenti. Oh, a casa è la stessa cosa, solo che non ne trovo così tanti. Passeggio qui come passeggio lì, ma qui in ogni strada vedo una gran varietà di persone e là posso solo andare a trovare la signora Allen. Il signor Tilney fu molto divertito. Solo andare a trovare la signora Allen, ripeté, che quadro di povertà intellettuale. Comunque, quando affonderete di nuovo in questo abisso, avrete più argomenti di conversazione, potrete parlare di Bath e di tutto quello che avete fatto qui. Oh sì, certo non mi mancheranno più gli argomenti di conversazione con la signora Allen o con chiunque altro. Credo proprio che non farò che parlare di Bath quando tornerò a casa. Mi piace davvero così tanto. Se solo potessi avere con me papà e mamma e il resto della famiglia, credo che sarei al massimo della felicità. La venuta di James, il mio fratello maggiore, è stata una sorpresa deliziosa, specialmente visto che abbiamo scoperto che la famiglia con la quale eravamo appena diventati così intimi era proprio quella dei suoi più cari amici. Oh, chi potrebbe mai stancarsi di Bath? Non certo chi viene portando in sé sentimenti così veri e genuini come fate voi, ma per la maggior parte dei frequentatori di Bath il tempo di papà e mamma, dei fratelli e dei più cari amici è passato da molto, e con esso è finita la gioia semplice dei balli, del teatro e delle passeggiate di ogni giorno. Così finì la conversazione, poiché le esigenze del ballo erano diventate troppo pressanti per permettere loro di distrarsi con qualcos'altro. Appena completato un giro di danza, Catherine si rese conto di essere osservata attentamente da un signore che si trovava fra gli altri spettatori, subito dietro al suo cavaliere. Era un bell'uomo, di aspetto autorevole, non più giovane ma ancora vigoroso, e lei vide che mentre ancora la guardava fissamente, egli si rivolgeva anche familiarmente al signor Tilney, sussurrandogli qualcosa. Confusa da questa attenzione e arrossendo per il timore che fosse nata da qualche particolare stonato nel suo aspetto, girò la testa altrove. Ma proprio allora il signore si ritirò e il suo cavaliere, avvicinandosi, disse: «Vedo che vi chiedete che cosa mi abbiano appena chiesto. Quel signore conosce il vostro nome e anche voi avete il diritto di conoscere il suo. È il generale Tilney, mio padre». La risposta di Catherine fu solo «Oh!», ma era un «Oh!» che esprimeva tutto, attenzione per le sue parole, completa fiducia nella loro veridicità. Il suo sguardo seguì ora il generale, che si allontanava tra la folla, con autentico interesse e grande ammirazione, e il suo segreto commento fu «Che bella famiglia sono!». Chiacchierando con la signorina Tilney, prima che la serata terminasse, si presentò a Catherine un nuovo motivo di felicità. Non aveva mai fatto una passeggiata in campagna da quando era arrivata a Bath. La signorina Tilney, che conosceva bene tutti i dintorni più comunemente frequentati, ne parlò in termini tali da farle venire voglia di conoscerli anche lei. E quando Catherine ammise che temeva di non trovare nessuno che l'accompagnasse, il fratello e la sorella le proposero di fare insieme una passeggiata una di quelle mattine. «Oh, mi piacerebbe più di ogni cosa al mondo!» esclamò. Ma non rimandiamo, andiamoci domani. Gli altri furono subito d'accordo e la signorina Tilney mise un'unica condizione, cioè che non piovesse, cosa che Catherine era sicura non sarebbe capitata. A mezzogiorno dovevano andarla a prendere a Pulteney Street e ricordati a mezzogiorno, furono le parole con cui salutò la nuova amica. L'altra amica, la più antica, la più fidata, Isabella, la cui sincerità e il cui valore aveva potuto apprezzare per 15 giorni, quasi non la vide per tutta la serata. Ma anche se desiderava renderla partecipe della propria felicità, obbedì allegramente al desiderio del signor Allen, che la portò a casa abbastanza presto, e per tutto il tragitto il suo cuore ballò al ritmo della carrozza.